Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie a tutti per la cortese attenzione, grazie a Ezio De Gradi per la regia. L'appuntamento rimane confermato a domenica prossima, medesima ora. Buona giornata. E non dimenticate la replica mercoledì notte dopo le ultime news, verso tra 1 e 2 più o meno.